Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Ecco. K, attenzione che arriva la nube. È già arrivata la nube. Ma che nube? Ma no. Tu sei sicuro che arriva? Nube. Quando è che arriva la ma nube? Ma non arriva la nube, dai. C'è il weekend, devo andare al lago col cane, con Tito. Cosa, Tito, andiamo al lago, ma Tito. Ma non è la nube quella di Fantozzi che segue gli impiegati che vanno in vacanza. La nube è una nube, ti rovina il weekend comunque. Sì, ti rovina la vita, la nube radioattiva di Fukushima. Ma è proprio sto weekend, ho capito, radioattiva Fukushima. Non è che si dice radioattiva Fukushima, mi metti un po' d'ansia, ma soprattutto se è sul weekend, perché martedì, sì, ma metti che venga giovedì. Sì, ma che giovedì lo sai che è già praticamente venerdì, sì, no? Tu preferiresti lunedì prossimo? No, possiamo telefonare in Giappone e vedere se riescono a farlo arrivare qui. Nube lunedì, così si sta a casa, sì, perché devi stare al chiuso e non vieni a lavorare lunedì, quindi ti salvi il lunedì in pratica. Giovedì comincia un po' la sera, comincia un po' già a diradarsi, perché cominci e esci la sera, no? Dico, beh, giovedì sera esco. C'è la nube radioattiva. Ma la nube tanto non la vedi, non è che ti disturba poi così tanto. Il weekend la puoi fare tranquillamente, poi magari muori dopo tanti anni, però l'importante è fare il weekend. Cos'è? Questi sono i giapponesi che insegnano ai bambini con un cartone animato quello che è successo nella centrale di Fukushima. Ah, ma è bellissimo. Senti, praticamente la storia di questo reattore instabile, che viene chiamato Nuclear Boy nel cartone animato, che è un bambino che ha mal di pancia. Ma bellissimo! E a cui i dottori somministrano medicine per evitare che faccia la cacca. Praticamente gli danno l'imodium, provano a somministrare. Sì. Ecco, per ora Nuclear Boy emette solo dei piccoli peti radioattivi che non sono un pericolo grande quanto la cacca, hai capito? E il tutto è per spiegare appunto con disegni e fumetti come ci si può addestrare contro. No, un altro film. È un altro cartone animato. Sì, questo modo, però ato cagò. No cagato, perché non deve fare la cacca, non deve farla, quindi siamo tutti contenti che se no fa le cagato, puzzette va bene, ma sì, insomma non va tanto bene. Però se lui invece dicesse sì, ho cagato, allora ato cagò, no. E ora, bambini, il sonnellino. Adesso ci mettiamo sulle sdraiette, Drago, facciamo il riposino che ci fa bene. Io so c'ho anche mal di schiena. Bene. Però tu, scusa, Drago, non devi fare il riposino. Come adesso, no? No? Ti hanno chiesto di raccontare la fiaba. No, che palle, ma sì, sempre io. Sì, perché tu sei il narratore. Devo raccontare la fiaba a chi? Ai bambini qui per farli dormire. Anche a me, dai. Va bene, allora raccontiamo una fiaba a tema. Sì, una fiaba che li tranquillizzi sulla situazione in Giappone, Fukushima, le radiazioni terribili che ci ammazzeranno tutti con tumori alla pelle. Ma dillo dopo. Di tutti, no, va bene, lascia stare. C'era una volta il nucleo di un atomo di uranio 235. Era un nucleo molto instabile, però viveva tranquillo all'interno del suo atomo. Fino a che un giorno ricevette la visita di un neutrone. Chi è? Chiese il nucleo. Sono un povero neutrone bersagliato dalla sfortuna, disse una voce. Ho perso il lavoro, mia figlia si droga e mi si è appena aggrippato il motore della macchina qua fuori. Mi puoi aiutare, per favore? Ma certo, rispose il nucleo, e si fece in due per aiutare il neutrone. La vostra massa, disse il neutrone ai due nuclei più piccoli, non è uguale alla massa del nucleo originario. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Dissero i due nuclei più piccoli. Non è possibile! Non è possibile! Certo che è possibile, disse ghignando il neutrone. Mai sentito parlare di Einstein? E neanch'io! Uguale massa moltiplicato di velocità di luce al quadrato, disse il vecchietto con i capelli bianchi spettinati, i baffi grigi e gli occhi di uno che non dorme mai, prima di essere colpito con la clava da un australopiteco. Ach E così, grazie a una meravigliosa reazione a catena incontrollata, i nuclei di uranio-235, dandosi la mano uno con l'altro come tante figurine di carta, riuscirono nella notevole impresa di radere al suolo la città giapponese di Hiroshima, con il supplemento di 100.000 morti immediati e di 100.000 feriti gravi. Chiedo asilo! Ecco, questo, bambini all'ascolto, questo è Kappa. No, questo è un contatore Geiger. No, è Kappa che fa il contatore Geiger con la bocca. Manco servisse a qualcosa, tu vai. Comunque sei radioattivo, Drago, vedi? Sì, infatti, perché ti si digrignano i denti. Non sono nemmeno i denti, denti, è la lingua sul palato. Sì. Tu, per esempio, sai così con la lingua arrotolarla tipo un'incilata. No, Tito, tu non lo sai fare, Tito. Vabbè, Tito con la tipo lingua, una... però, bella morbida. Come si chiama? Questa è l'incilata o è il... Il burrito. Il burrito. Ma cosa tipo stai... un burrito con la lingua? Va bene, ma non anzi, si vede un taco, ma un cosa taco. C'entra poi? Stai non facendo so. Un contatore Geiger. Perché in Giappone. Allora, bisogna spiegare. A differenza di quello che fanno in Giappone, che sono sempre i soliti morbosi, e la cacca, e i peti, loro sono sempre lì dagli orifizi. Invece, noi italiani dobbiamo spiegare ai nostri bambini in maniera molto chiara che insomma c'è un pericolo nube, un pericolo nucleare. Ma incombente. La nube basta che non venga il weekend, guarda, io sono tranquillo. Allora, bisogna spiegare in pratica che cosa succede nella fissione, nella fusione nucleare. Tu sai qualcosa? No, beh, no. Tu neanche. Però quindi... dai, allora, facciamo uno schemino molto semplice. Sì. Allora, fissione, cattivo perché bomba atomica. Va bene, no? Allora, quindi fusione buono perché no bomba atomica. Esatto, ma fissione buono perché energia in tutte le case, no? Come nella pubblicità, hai visto? E fusione cattivo perché bomba all'idrogeno. Ma fissione cattivo perché le scorie. E fusione buono perché no scorie. E quindi ai bambini che cosa insegniamo? Incandescente, un'enorme fornace nucleare, e l'idrogeno si fa elio nel calore, più calore che ci sia. Yo-ho, che caldo, il sole è un posto che non si può abitare, ma senza il sole qui da noi non si può proprio star. Il sole è un ammasso di gas incandescente, un'enorme fornace nucleare, e l'idrogeno si fa elio nel calore, più calore che ci sia. Il sole è caldo, il sole è grande, il sole è sempre lì, e anche quando non lo vedi splende notte. Vedi, così tu spieghi le cose, i bambini le capiscono. Il sole è un ammasso di gas incandescente, un enorme e adesso loro lo sanno. Ma quindi... il sole è anche il giornale in cui lavoriamo noi, in qualche maniera. È il gruppo editoriale. Sì, il sole 24 ore. Il sole per 24 ore. Bisognerebbe fare la canzone. No? Vabbè, no. Quelli che stanno al sole 24 ore, tutti abbronzati. Non la so. Quelli che leggono il sole 24 ore tutti abbronzati. Ma chi la dice sta roba? È una roba che si diceva ai tempi degli yuppies, no? 1984-85. Vabbè, dai, no, c'ha ragione. Gli yuppies. Io sono yuppies, un archeologo. Sembra, perché yuppie è il nome di un cibo per cani. È vero, yuppie. Tito, non è quello che volevo in dire. In Italia si dice yuppie. Ah, yuppie. Se dice yuppie. Yuppie! Così? Così anche. Comunque, vuoi dire, il sole, e allora? E allora bisogna fare la canzone invece che spiegando che il sole è la stella che ci illumina. Che ci scalda, bisogna spiegare che il sole è anche un giornale che ci dà da vivere. Però non abbiamo idea. Il sole è un giornale che parla di denaro. Vi sembra un argomento interessante? Con il Dow Jones e il MIBTEL. E il Nasdaq e i poveretti che si suicidano. È morto. No cagato, nuclear boy. Cielo, asilo. C'è tutti noi.